32° canto del Purgatorio dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrata da Pierre. Purgatorio. 32° canto. Tant'eran gli occhi miei fissi e attenti a disbramarsi la decenne sete che gli altri sensi m'eran tutti spenti. Ed essi, quinci e quindi, avien parete di non caler, così lo santo riso a sé traeli con l'antica rete. Quando per forza mi fu volto il viso ver la sinistra mia da quelle dee, perché udì da loro un troppo fiso, e la disposizion ch'a veder ee negli occhi pur testé dal sol percossi, sanza la vista alquanto esser mi fee. Ma poi ch'al poco il viso riformossi, e dico al poco, per rispetto al molto sensibile, onde a forza mi rimossi, vidin sul braccio destro esser rivolto lo glorioso esercito e tornarsi col sole e con le sette fiamme al volto. Come sotto gli scudi, per salvarsi volge si schiera e se gira col segno, prima che possa tutta in sé mutarsi, quella milizia del celeste regno che procedeva, tutta trapassonne, pria che piegasse il carro il primo legno. Indi alle rote si tornar le donne, e il grifon mosse il benedetto carco sì, che però nulla penna crollonne. La bella donna che mi trasse al varco, Estazio, e io seguitavamo la rota che fe l'orbita sua con minore arco. Sì, passeggiando l'alta selva vota, colpa di quella ch'al serpente crese, temprava i passi un'angelica nota. Forse in tre voli tanto spazio prese di sfrenata saetta quanto eramo rimossi quando Beatrice scese. Io sentì mormorare a tutti Adamo, poi cerchiaro una pianta rispogliata di foglie ed altra fronda in ciascun ramo. La coma sua, che tanto si dilata più quanto più è su, fora dagli indini boschi lor per altezza ammirata. Beato sé, grifon, che non discindi col becco desto legno dolce al gusto, poscia che mal si torce il ventre quindi. Così d'intorno all'albero robusto gridaron gli altri, e l'animal binato, sì, si conserva il seme d'ogni giusto. E volto al temo ch'egli avea tirato, trassero al pie della vedova frasca, e quel di lei a lei lasciò legato. Come le nostre piante, quando casca giù la gran luce, mischiata con quella che raggia dietro la celeste lasca, turgide fansi, e poi si rinnovella di suo color ciascuna, pria che il sole giunga li suoi corsier sotto altra stella, men che di rose e più che di viole colore aprendo, si innovò la pianta, che prima avea le ramora sì sole. Io non l'ontesi, né qui non si canta l'inno che quella gente allor cantaro, nella nota soffersi tutta quanta. S'io potessi ritrar come assonnaro gli occhi spietati, udendo di siringa, gli occhi a cui pur vegliar costò sì caro, come pintor che con esempio pinga, disegnerei com'io m'addormentai, ma qual vuol sia che l'assonnar ben finga. Però trascorro a quando mi svegliai, e dico, con splendor mi squarciò il velo del sonno, e un chiamar, «Surgi, che fai?» quali a veder de fioretti del melo che del suo pome gli angeli fa ghiotti e perpetue nozze fa nel cielo, Pietro e Giovanni e Jacopo condotti e vinti ritornaro la parola nella qual furon maggior sonni rotti e videro scemata loro scuola così di Moisè come d'Elia e al maestro suo cangiata stola tal tornai io e vidi quella pia sovra me starsi che condutrice fu dei miei passi lungo il fiume Pria e tutto in dubbio dissi ov'è Beatrice ond'ella vedi lei sotto la fronda nova sedere in sulla sua radice vedi la compagnia che la circonda gli altri dopo il grifon sen vanno suso con più dolce canzone e più profonda e se più fu lo suo parlar diffuso non so però che già negli occhi m'era quella ch'ad altro intender m'avea chiusa sola sedeasi in sulla terra vera come guardia lasciata lì del plaustro che legar vidi la biforme fera in cerchio le facevan di sé claustro le sette ninfe con quei lumi in mano che son sicuri d'aquilone d'austro qui sarai tu poco tempo silvano e sarai meco senza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano però in pro del mondo che mal vive al carro tieni or gli occhi e quel che vedi ritornato di là fa che tu scrive così Beatrice e io che tutto ai piedi di suoi comandamenti era divoto la mente e gli occhi ov'ella volle diedi non scese mai con sì veloce moto foco di spessa nube quando piove da quel confine che più va remoto com'io vidi calar l'uccel di Giove per l'alber giù rompendo della scorza nonché di fiori e delle foglie nove e ferì il carro di tutta sua forza ond'el piegò come nave in fortuna vinta da l'onda or da poggia or da orza poscia vidi avventarsi nella cuna del trionfal veiculo una volpe che d'ogni pasto buon parea digiuna ma riprendendo lei di là e de colpe la donna mia la volse in tanta futa quanto soffer ser l'ossa senza polpe poscia per indi ond'era pria venuta l'aguglia vidi scender giù nell'arca dal carro e lasciar lei di sé pennuta e quale esce di cuor che si rammarca tal voce uscì del cielo e cotal disse o navicella mia com mal se carca poi parve a me che la terra s'aprisse trambo le ruote e vidi uscirne un drago che per lo carro su la coda fisse e come vespa che ritragge l'ago a sé traendo la coda maligna trasse del fondo e gissen vago vago quel che rimase come da gramigna vivace terra dalla piuma offerta forse con intenzione sana e benigna si ricoperse e funne ricoperta e l'una e l'altra rota e il temo intanto che più tiene un sospir la bocca aperta trasformato così il edificio santo mise fuor teste per le parti sue tre sovra il temo e una in ciascun canto le prime eran cornute come bue ma le quattro un sol corno avean per fronte simile mostro visto ancor non fue sicura quasi rocca in alto monte seder sovr'esso una puttana sciolta m'apparve con le ciglia intorno pronte e come perché non li fosse tolta vidi di costa lei dritto un gigante e basciavansi insieme alcuna volta ma perché l'occhio cupido e vagante a me rivolse quel feroce drudo la flagellò dal capo infin le piante poi di sospetto pieno e d'ira crudo disciolse il mostro e trasse per la selva